change of style. Show me style. Come se. Big up Masse di Desolandia, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Reggae Vibes. No, aspetta, gatto, cosa è successo? Oggi lo studio è per il mixtape. Mixtape Sana Incoscienza. Sana Incoscienza. Domani la radio Reggae Vibes, giovedì domani. Avete ragione ragazzi, scusate, però prima di andare via, sentite questo. Ehi.